Scanti, vinci, le palaciughe, vinti, poi di dodo, palaciughe, vinti più 18, quanto fa? Quanto fa? 20 più 18? 38. E 15 più 17, 16 cosa che fa? 15 più 17, dai, dai, sta roba mica, io non li vai a figa la Madonna, chi è il porco del figlio? Porco Dio, mi voglio sapere come ti fai i conti, Dio. Ma con gli altri 20 prima, tua figa. Infatti, 15, 20, ti va a 38, Dio. Ma con te adesso? 36 come fa a far 18 più 15 non fa 36 Dio ti maledica, te da un schiaffo che ti figuro su quel muro, ta mare puttana, che te colpo, Dio caro, 15 e 18 quanto fa, coglione, Dio porco, Dio cava, perché avete fatto la carriera, non cagato, perché hai cazzo a lui, che spacco a schiena, c'ho cretino. Ma dica che modo che Antonio è buono. Ciao cretino, Dio cane! Ma che buono così! Ma che buono però, poi... Si te sciapono, ah! Non segnavi i punti, rompami i coglioni! Non segnavi i punti e titoli! Stammi a rompami i coglioni, dale, che cazzo! 15 più 18 quando fa, porco due, quando fa 15 più 18? Ma va a cagare! Quando fa? Non ho capito. Boh, 18, vabbè, non lo so, ciao raga!